tornerai. So ben io vo por te questo il cor dalle tue stelle mai, mai non disisvelle. Tornerai. Io non posso da te, non posso, non posso da te vive disgiunto se non si smembra la unità del non si smembra la unità del punto. Tornerai. Tornerò. Quando? Ben tosto. Ben tosto. Me lo prometti. Te lo giuro. E me lo serve. E se a te non verrò, tu a me verrai. E me lo serverai. E se a te non verrò, tu a me verrai. Addio. Addio. Nerone, Nerone. Pupia, pupia, addio. Addio, Nerone, addio. Addio, Pupia. Addio. Concepivo l'uomo. costrette per intero.